Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Una trasmissione interamente pensata e realizzata da persone animaliste, antispeciste e vegan. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Ilaria Beretta, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Tante le notizie e gli approfondimenti della settimana. Partiamo subito da quella maggiormente legata all'attualità nazionale. Il Movimento 5 Stelle si è aggiudicato il governo di alcune delle città più importanti d'Italia, Roma e Torino, con sindache donne e pare anche sensibili alla questione animale. A Roma sappiamo che c'è la spinosa questione delle botticelle, le carrozzelle per turisti trainati da cavalli, e a Torino c'è la questione del nuovo zoo che l'amministrazione Fassino voleva aprire nel parco Michelotti. C'è poi tanto da fare sulla scelta vegan nelle mense comunali, sulla questione dei botti e sulla questione del randagismo. Terremo d'occhio l'operato delle due neosindache e gli auguriamo intanto un buon lavoro. Da Little Italy al gigantesco impero del Sol Levante. Andiamo in Cina, dove l'associazione Human Society International di Pechino ha fatto sapere che, finalmente, per la prima volta, le autorità di governo di Yulin, prefettura della Cina meridionale, dove si svolge il festival dedicato alla macellazione e al consumo di carne di cane, ha risposto ai numerosi appelli che da tutto il mondo sono pervenuti per chiedere che venga fermata la gigantesca mattanza di cani. L'annuale Yulin Dog Meat Festival solitamente comincia il 21 giugno e dura circa 10 giorni e festeggia il solstizio d'estate con la macellazione di migliaia di cani. Il festival non è un'iniziativa governativa, tuttavia il governo si è impegnato a impedire che si ripeta. I sostenitori del festival ripetono che la carne di cane non è diversa da quella di qualsiasi altro animale, mentre chi si oppone dice che i cani macellati sono stati o rubati a proprietari oppure prelevati dalla strada in quanto randagi. Le foto dei cani stipati nelle gabbie e caricati sui camion stanno facendo molto scandalo in rete e una petizione per fermare il festival di Yulin ha raccolto ben 11 milioni di firme in tutto il mondo. Sempre più spesso poi arrivano dai network fotografie di attivisti che prendono d'assalto i camion e liberano gli animali senza stare ad aspettare che il governo vieti il festival. Milano nei giorni scorsi si è tenuta una conferenza stampa congiunta di LAV, EMPA e La Collina dei Conigli, le tre associazioni animaliste più importanti della Lombardia che sono anche membri della consulta regionale randagismo. La conferenza stampa era stata indetta in quanto era stato diffuso il testo del progetto di legge regionale 228 bis. Il testo era la conseguenza di un procedimento di semplificazione legislativa tendente a enumerare solo i principi generali delle diverse materie normate per poi rimandare tutti i tecnicismi a successivi regolamenti attuativi. Se non che, per quanto riguarda la parte cani e gatti, questa semplificazione portava alla letterale cancellazione di parti significative della legge vigente, inclusi alcuni dei principi generali che facevano della Regione Lombardia un esempio positivo sulla differenza difficile questione del randagismo. Le associazioni hanno fatto un gran putiferio attorno alla vicenda. Mail bombing, conferenze stampa, presidi, non hanno lasciato niente di intentato e ce l'hanno anche fatta. Non hanno mollato e sono stati premiati. La nostra corrispondente da Milano, Roberta Marino, rabdomante dello scoop animalista, è stata sul pezzo, come se non ci fosse un domani, e questo è il risultato. Un salto indietro di 10 anni. Così le associazioni animaliste lombarde, capitanate da EMPA, LAV e Collina dei Conigli, hanno commentato la decisione del Consiglio regionale di modificare in maniera peggiorativa la legge per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali d'affezione. Una legge allo stato attuale all'avanguardia e che potrebbe essere da apripista per altre regioni, ma le cui modifiche potrebbero vanificare anche possibili miglioramenti altrove. Per questa ragione, attivisti di varie associazioni che si occupano di canili, colonie feline e randagi hanno sottoscritto un appello e sono scesi in piazza davanti al Palazzo della Regione mentre in aula era in corso la votazione. Sentiamo alcune voci raccolte durante il presidio. Siamo qui per sostenere e combattere contro queste proposte di legge che vorrebbero abrogare in modo che questo non avvenga. Noi volontari sosteniamo già molto le ASL, già ci prodighiamo per le catture, il cibo e le cure e quant'altro. Quindi la nostra regione e le nostre ASL ci danno poco sostegno. Importante che questa legge non passi perché noi siamo avanti 50 anni rispetto al sud, legge contro per gli animali, infatti qua non ci sono tutte, diciamo, le istituzioni funzionano, le ASL, quindi gli animali vengono sterilizzati, i canili funzionano, c'è l'accalappio, i cani feriti vengono gestiti. Passasse questa legge, le ASL non assistono più gli animali randagi che vengono, comunque non verrebbero più soccorsi. Noi volontarie siamo ormai al collasso perché le emergenze sono, diciamo, una dietro l'altra, quindi i soldi non ci sono più, le forze non ci sono più, quindi se passasse questa legge sarebbe proprio la fine. Dovrebbe essere migliorativa, contro il randagismo ancora di più, e bisogna fare qualcosa anche per il sud, assolutamente. LAV, EMPA e Collina dei Conigli, che per primi hanno lanciato l'allarme, a poche ore dal voto sono riusciti a ottenere un incontro con alcuni consiglieri regionali e a strappare una promessa di mantenimento delle garanzie sancite dalla legge attuale. Un coinvolgimento che, lamentano le stesse associazioni, è stato concesso in extremis e che invece il Consiglio avrebbe dovuto prevedere già in fase di revisione, come ci ha spiegato Simone Pavesi, responsabile LAV Lombardia. La Regione Lombardia di fatto sta rivedendo il testo unico delle leggi regionali in materia di sanità, che include anche la parte di prevenzione del randagismo e tutela degli animali d'affezione, e questa parte la sta facendo senza chiedere parere alle associazioni che sono direttamente coinvolte quotidianamente nell'attuazione della legge. Quindi questa mancanza di coinvolgimento dell'associazione ha portato all'elaborazione da parte della Regione di un progetto di legge che purtroppo va a cancellare buona parte del testo della legge che oggi è ancora in vigore, per esempio un intero articolo che è per il riconoscimento e la tutela delle colonie feline, come per esempio l'obbligo di apertura al pubblico 4 giorni a settimana, compreso fine settimana, dei canili. Questi due punti verrebbero abrogati di fatto, così come molte altre cose sostanziali come competenze delle ASL per gli interventi di pronto soccorso e stabilizzazione di animali d'affezione ritrovati feriti, per esempio cani investiti piuttosto che gatti malati, e altro ancora. Componenti la consulta, LAV, EMPA, la Collina dei Conigli, unite con la forza di decine, direi centinaia ormai, di altre associazioni che operano nel territorio qui in Lombardia, stiamo chiedendo il ripristino del testo vigente, perché a seguito di una mobilitazione intensa avviata dalle associazioni nei giorni scorsi, abbiamo avuto la possibilità di incontrare il Presidente della Commissione Sanità e funzionari della Direzione Generale Sanità, che hanno voluto rassicurarci rispetto al fatto che le nostre istanze sono ormai già state accolte da parte della maggioranza. Sembrerebbe che il testo che era stato stralciato dalla legge vigente verrà ripresentato con degli ordini del giorno, degli emendamenti, quindi questa volta è stato fatto tutto direttamente, quindi dire solo dalla politica. Questa legge per la Lombardia, anche rispetto alle altre leggi regionali e alla situazione comunque in Italia, può essere considerata una legge all'avanguardia o no? Il testo attuale della legge vigente sicuramente sì. perché ha introdotto cose nuove rispetto ad altre leggi regionali che appunto non esistevano, come il riconoscimento di colonie feline, come una clausola valutativa che è uno strumento tecnico per rendicontare meglio in termini di efficienza ed efficacia come la regione raggiunge degli obiettivi prefissati, è una cosa molto importante per quanto riguarda la tutela degli animali, l'obbligo di apertura al pubblico dei canili che non credo esista anche in altre regioni, quindi insomma diversi aspetti estremamente positivi che in questi anni sono stati di riferimento e un valore aggiunto della Lombardia rispetto al resto del paese, quindi il fatto che vengano tolti ci ha lasciato veramente perplessi. Roberta Marino, corrispondente da Milano per Restiamo Animali. Dalla megalopoli lombarda alla Venezia toscana. Sabato 18 giugno a Livorno LAV, Esseri Animali e i Posi hanno organizzato una manifestazione in forma di presidio per chiedere di riprendere il progetto Gorgona che era stato sorprendentemente interrotto dall'amministrazione carceraria e dall'ASL. I manifestanti hanno chiesto di riprendere il progetto dal punto in cui era stato interrotto con la sua rieducazione non violenta delle persone detenute nell'isola carcere e con il particolare trattamento che veniva riservato agli animali allevati dai carcerati. In particolare si chiede di chiudere definitivamente il piccolo macello, macello che per un periodo era stato chiuso e gli animali erano stati dichiarati cooperatori del trattamento dei carcerati, attuando così in pieno lo spirito della Costituzione secondo il quale la pena del carcere non è una sorta di vendetta o di allontanamento del reo, ma un percorso di recupero e di preparazione al reinserimento nella società. La direttrice del carcere paesana, inviando come ha fatto per molte volte un incontro con noi, di cavarsela con pensare. Non ha capito ancora, forse oggi lo capirà, che noi non vogliamo. Questa non è l'ultima iniziativa. Siamo chiari. Le iniziative continueranno finché non ci ascolteranno. Purtroppo oggi a Gorgona gli animali sono tornati a essere chiusi nelle stalle e il piccolo macello è stato riattivato. Il veterinario Marco Verdone, che aveva lavorato duro alla trasformazione virtuosa dell'esperienza Gorgona, è stato trasferito assieme al direttore del carcere, Carlo Mazzerbo. LAV, Esseri Animali e Iposi non mollano e reclamano un ripensamento e noi, come redazione di Restiamo Animali, siamo con loro. Anche il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, appoggia questa istanza e ha partecipato alla conferenza. Vi terremo informati sugli sviluppi. Sulle pagine animaliste della stampa.it è stato pubblicato il video di una bella storia a lieto fine ambientata in India. Scopriamo che esiste l'associazione animalaidunlimited.org che recupera animali feriti dalla strada dell'India e li assiste e cura prima di rimetterli in libertà. Nel video si racconta la storia di un vitellino ferito a uno zoccolo. I soccorritori sono stati chiamati da un cittadino che ha cercato di fermare l'emorragia e hanno vissuto un'esperienza che la dice lunga sulla capacità di provare emozioni e sulla volontà che anche un animale può esprimere. La madre del vitellino, temendo che le venisse portato via il suo cucciolo, ha fatto qualunque cosa per salire con il piccolo in ambulanza e ce l'ha fatta. Nel finale poi vediamo il vitellino completamente guarito che scalcia festante assieme a un suo coetaneo sotto lo sguardo amorevole di sua madre. Il video si conclude con l'invito a supportare Animal Aid Unlimited affinché possa salvare altri cuccioli tenendoli assieme alle loro madri. Pubblicheremo il bel video nel nostro blog www.restiamoanimali.it. Salvi! Animali, rifugi e libertà è il libro di storie e foto voluto dalla casa editrice di Pordenone Safarà Editore, curato dalla storica dell'arte e dell'architettura Valentina Sonzogni, nota nel mondo animalista come animatrice della rivista di studio animale Animot, l'altra filosofia, e presidente dell'associazione Galline in Fabula Onlus. Salvi, storie di rifugio, animali e libertà, è un saggio fotografico che consiste in 11 interviste dedicate alla realtà dei rifugi e santuari per animali liberati in Italia. Cosa sono i rifugi per animali liberati? Come si sostengono? Chi li ha fondati? Chi ci lavora e chi ci vive? A queste domande tenta di rispondere il libro. Giuseppe Coco ha intervistato per noi la curatrice Valentina Sonzogni. È uscito in edizione cartacea dopo la prima edizione in digitale Salvi, appunti per una teoria e una pratica per i rifugi per gli animali. Siamo al telefono con Valentina Sonzogni, che è la curatrice di questo interessante e avvincente libro. Come è nata l'idea di Salvi? Innanzitutto salve a tutti, ciao Giuseppe, grazie per l'invito. Questo progetto è nato da un mio interesse che si è sviluppato in maniera, insomma, un po' inaspettata durante un viaggio che ho fatto nel 2015 con Leonardo Caffo, con cui lavoro insieme nella nostra associazione Galline in Fabula in India, per una grande conferenza che si svolge ogni 3 anni, che si chiama Minding Animals, che è una conferenza internazionale sui diritti animali, ma anche sull'animalità intesa in senso generale. E lì ho avuto la fortuna di conoscere il fondatore di questa grande associazione che ha sede in India, a Udaipur, che si chiama Animal Aid Unlimited, che è una combinazione tra un rifugio per animali e un villaggio rurale per animali anche umani, che è appunto in una delle zone più povere e più depresse dell'India. E conoscendo Jim Myers, diciamo che mi sono avvicinata a questa realtà della cura degli animali salvati. Pertanto, quando sono tornata in Italia, ho cercato di capire in maniera un po' più approfondita quali potevano essere le realtà italiane dei rifugi per animali, e chiaramente si è aperto un mondo vastissimo, perché, come sai, i rifugi per animali in Italia sono già molti, per cui da questo incontro molto fortuito si è aperto, diciamo, un capitolo della ricerca che chiaramente non ho fatto da sola. Io mi sono appoggiata innanzitutto ai soci della nostra associazione Galline in Fabula, soprattutto a Rita Ciatti e Leonora Pigliucci, che hanno sviluppato con me anche molto l'idea di questo volume, e poi a tutta una serie di autori e di autrici come Alessandra Colla, Tiziana Perz, Milla e Paolo, insomma anche fotografi come Marco, Arianna, che ci hanno molto aiutato con le immagini. Per cui è un lavoro collettivo che effettivamente sia stato generato da un mio incontro totalmente fortuito. In Italia c'è una grande urgenza che questi rifugi vengano soprattutto supportati in qualche modo con del denaro pubblico, perché per ora in questo momento si basano molto sulla buona volontà dei volontari e magari su una rete di sostenitori che donano un pochino dei loro denari. Però diciamo che le esigenze di un rifugio sono molto più ampie di quello che possiamo pensare, perché alcuni animali come i maiali possono arrivare a costare ad esempio 600 euro l'anno l'uno, una capretta 400 euro il mantenimento, per cui rifugi che hanno un centinaio di animali, come sono i grandi rifugi italiani o anche di più, ti lascio immaginare, insomma, cosa può essere il costo annuale soltanto per l'alimentazione, senza pensare alle cure veterinarie che comunque anche in grande parte vengono erogate magari da veterinari che sono sensibili, diciamo, alla causa. Però comunque la grande battaglia che i rifugi stanno affrontando è proprio quella di essere riconosciuti come rifugi e pertanto di beneficiare anche di qualche soldino pubblico. Le esperienze del contatto con i rifugi mi hanno aiutato ovviamente tantissimo nella realizzazione del libro. L'altra cosa che mi è sempre venuta in mente dei rifugi è che sono dei posti fondamentali per chi si occupa di diritti animali, ovvero per le persone che tutti i giorni sono sottoposti a una serie di immagini molto scioccanti e comunque sono esposte continuamente alla sofferenza animale e a prendersi spesso cura in prima persona di animali che sono malati, sofferenti, di cui si deve decidere magari l'eutanasia o altre pratiche che comunque generano sofferenza in chi vi è esposto. E quindi invece il contatto con degli animali che invece sono stati liberati in questo senso e che possono aspirare a un futuro, possono aspirare a invecchiare, a morire di morte naturale, di vecchiaia, diciamo così, è un minimo di speranza che può essere utilizzato dagli attivisti per curare quelle ferite a cui insomma tutti siamo sottoposti ogni giorno, perché chiaramente la scelta antispecista animalista è una scelta da cui non si torna indietro, nel senso che quella sofferenza che uno sperimenta anche una volta sola rimane proprio come un segno, per cui secondo me è molto positivo che le persone che si occupano di questo vadano nei rifugi proprio per vivere anche una dimensione un minimo più, un po' più piena di speranza, ecco, secondo me è questo. Di che cosa si occupa l'associazione Galline in Fabula? L'associazione Galline in Fabula si occupa di diffusione della cultura dell'animalità, intesa diciamo a vari livelli. Noi ci facciamo molti programmi con l'università, con le scuole, con chi ci chiede di andare a parlare di animali e ci occupiamo spesso di curare la parte, diciamo, tra virgolette, culturali di alcuni festival. Abbiamo organizzato per 3 anni il festival Volterra Vegan, siamo partner di Rave, che è un'associazione di Udine che si occupa di residenze d'artista, che lavorano con animali salvati dal macello. Abbiamo tutta una serie di partner con cui cerchiamo di sviluppare un discorso, diciamo, più culturale sull'animalità. I'm getting desperate, desperate for revolution. Some kind of spark, some kind of connection. Dangerous days, come a little bit closer. I need to understand. La Spagna non è solo tori e corride, c'è anche il flamenco. Olé! E i film di Almodóvar. Una delle pietanze preferite dei protagonisti del film Donne sull'orlo di una crisi di nervi è la ricetta della settimana, quella che il nostro tosco vegan chef vi propone all'interno della rubrica Il pasto gentile. Per donne che sono sull'orlo e per chi ormai è andato oltre. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. So è arrivata l'estate, il pasto gentile le dà il benvenuto con una ricetta nata vegan, resa celebre dalle donne sull'orlo di una crisi di nervi di un geniale Almodóvar. Noi però lo prepareremo senza overdose di tranquillanti. Si tratta del gazpacho andaluso. Ingredienti per 4 persone sono 500 g di pomodori, un cetriolo piccolo, 2 peperoni rossi, 2 cipolle bianche, 2 spicchi di aglio, 100 g di pan grattato, una tazzina di aceto rosso, una tazzina di olio extravergine di oliva, sale e pepe. Sbucciate il cetriolo e pulitelo dai semi, tagliatelo a pezzetti. E a parte, lavate i pomodori e tagliateli a spicchi. Mettete tutto nel bicchiere del mixer o del frullatore a immersione. Aggiungete un bicchiere abbondante di acqua e frullate fino ad ottenere un purè. A parte, frullate anche il peperone dopo averlo pulito dai semi, l'aglio e la cipolla. Unite il tutto e fate filtrare con un setaccio. Aggiungete il pan grattato e lasciate riposare per qualche minuto, aggiustando di sale e pepe. Mescolate bene e unite olio extravergine d'oliva e l'aceto e lasciate raffreddare in frigorifero per almeno 2 ore. Servite accompagnando con delle fettine di cipollina fresca. Que me sirvan 4 tragos, cantinero, yo los pago pa calmar este sufrir. La puntata è interamente dedicata a una splendida cinquantenne che celebriamo ascoltando la musica del suo gruppo. Grazie Giuseppe, non dovevi. Eh no, non sei tu Camilla, almeno non in questa puntata. Parliamo invece di Shirley Manson, la sensuale cantante dei Garbage, che hanno all'attivo 23 anni di carriera, che festeggiano con un nuovo album e una tournée che è anche passata dall'Italia, da casa di Roberta Marino. La rossa Shirley è un'attivista di PETA e ha partecipato ad una campagna contro l'uso delle pellicce. Il nuovo lavoro del gruppo si chiama Strange Little Birds, che consacra, rinnovandola, la loro cifra stilistica fatta di rock, elettronica e motivetti che ti entrano in testa. Però ci sono anche testi che parlano di fragilità, perdita, solitudine, quindi luci e ombre che sono ben caratterizzate dalla voce della Manson. La traccia che ho scelto è Empty. Riempiamo quindi il nostro vuoto con la musica dei Garbage. Prima di concludere, come sempre, vi ricordiamo le voci che hanno dato vita a questa puntata di Restiamo Animali e che sono quelle di l'inossidabile Roberta Marino, Simone Pavesi, Lorenzo Guadagnucci, Valentina Sanzogni, Gabriele Palloni, Shirley Manson, Giuseppe Coco e colei che è al di là dell'orlo, Camilla Lattanzi. L'appuntamento con Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali.